Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Iniziamo insieme una nuova settimana. Lo so. La strada sembra sempre più in salita, i contagi aumentano e noi siamo tutti preoccupati, confusi, impauriti, ci sentiamo fragili, tutto sembra incerto, ma noi in questo momento dobbiamo stringere i denti e andare avanti, guardare il presente e pensare che possiamo attrezzarci per farcela. Ci aiuta oggi un grande esperto, il dottor Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, direttore della rivista italiana di psicologia contemporanea, che è naturalmente in linea con noi. Buongiorno e bentornato. Nicoletta, è un piacere che ci risentiamo. Saluto tutti. Anche da parte mia. Allora, dottor Mazzucchelli, noi dobbiamo avere una grande fiducia nel futuro. Sì. Questo può aiutarci. Questo non significa però essere ottimisti e indorarci la pillola. Bisogna essere realisti. Sì. Brava, sono d'accordo. La speranza non deve mai mancare. Senza speranza, anzi, talvolta lasciare, abbandonare le speranze è un po' la grande tentazione per tutti noi, disperare. Invece la speranza deve esserci. Però questo non vuol dire sposare un pensiero positivo e ingenuo, perché se tu indori la pillola e non guardi la realtà in faccia per quello che è, va a finire che non fai le azioni giuste per affrontarla. Quindi un sano realismo, guardare in faccia la realtà per quanto brutale possa essere, ma anche un'importante speranza nel futuro, che prima o poi ce la faremo. Io avrei bisogno, per iniziare bene la giornata, che poi dà il via questa settimana, ogni settimana noi ci sentiamo ripetere la convivenza col virus, bisogna essere responsabili, lucidi, però diciamola tutta, noi siamo un po' stanchi, ci sentiamo un po', no? Anche perché stiamo vivendo e rivedendo allo stesso tempo un film che tutti noi avremmo visto. Ecco. Mentre rispetto alla fase, quella iniziale, quella più dura dell'emergenza, un po' il futuro era incerto, poi sapevamo che ci aspettava qualche cosa di duro, di sfidante, ma non conoscevamo ancora tanto bene la storia. Ecco. Questo rende ancora più pesante, più difficile affrontare le giornate senza cadere in quel pericoloso errore, perché c'è chi si lascia sopraffare e allora ha la testa completamente occupata dal pensiero del contagio, del Covid, chi invece la silenzia e quindi dice, assume un po' quell'atteggiamento così, non dico fatalista, ma dice insomma io più di così non posso fare. Allora intanto c'è da dire che la paura è un'emozione importante, sì. Senza paura probabilmente saremmo già estinti e quindi la paura ci protegge da un certo punto di vista dal pericolo. Nella misura in cui è una paura amica, ci sono due tipologie di paure che dobbiamo imparare un attimo a distinguere, la paura amica e la paura nemica. La paura amica è quella che ci protegge dai pericoli, quindi che ci permette la nostra sopravvivenza e che ci fa performare al meglio nei momenti in cui magari siamo un po' sotto stress, un po' spaventati. La paura prima di un esame, per esempio, è anche una buona cosa se ci spinge a studiare di più. In alcuni casi però la paura diventa nemica, diventa paralizzante ed è quella emozione che quindi quando tu sei lì a fare l'esame poi fai scena muta perché ti blocchi e vai completamente in tilt. Allora noi dobbiamo apprezzare, abbracciare e amare le paure amiche perché sono dalla nostra parte, però al contempo anche individuare quelle nemiche e cercare di porvi un rimedio. Ci sono un paio di domande secondo me che possono essere interessanti per i nostri amici per inquadrare il loro rapporto con la paura. La prima domanda è questa, Nicoletta: ho paura di qualche cosa che è possibile o ho paura di qualche cosa che è probabile? Queste due categorie, possibile e probabile, si rifanno a due concetti diversi, perché possibile è tutto. Possibile è tutto, è possibile che io esco di casa, mi cade un vaso in testa e mi rompe la testa? Sì, è possibile, ma è probabile? No, non è probabile. Allora, io devo avere paura di ciò che è probabile, non di ciò che è possibile. Gli assicuratori questa cosa la sanno molto bene e tendono ad assicurare con dei premi diversi ciò che è possibile da ciò che è probabile. Seconda domanda, secondo me importante, è: rispetto alla mia preoccupazione, mi sto preoccupando e basta o mi sto anche occupando? Perché occuparsi è più utile di preoccuparsi. Allora, in questo modo, la paura, anche nemica, diventa una strada da seguire che ci mostra delle alternative comportamentali da mettere in atto nel qui ed ora, perché comunque ciò che noi possiamo fare oggi è l'azione di prevenzione migliore per far sì che il futuro sia più sereno. Possiamo però occuparci di noi, ma dobbiamo anche occuparci di chi ci sta a fianco. Sì, l'altruismo è una ricetta molto forte rispetto alle nostre preoccupazioni, perché l'altruismo, mettere al centro gli altri, genera in noi coraggio, speranza, fiducia, ci energizza da un certo punto di vista. E quindi è importante, si è visto anche, ci sono diverse ricerche scientifiche che dicono come nei grandi eventi traumatici della nostra storia, dallo tsunami all'attacco terroristico, alle Torri Gemelle, eccetera, eccetera, ci sono sempre due tipologie di sopravvissuti. C'è chi riesce a voltare prima pagina e a tornare prima alla normalità e chi invece rimane imprigionato in un disturbo post-traumatico da stress. Uno degli elementi dirimente rispetto a questa diagnosi è proprio se chi sta vivendo il trauma sta lì a subire inerme il trauma o anche si attiva per aiutare le persone che gli sono intorno. Cioè, guariscono prima dal trauma dello tsunami le persone che, mentre sono lì che cercano di salvarsi, si fermano a un certo punto, prendono un bambino, lo salvano e riescono, no, a salvare una vita in più. Oppure le persone che dopo l'attacco alle Torri Gemelle si attivano per servire la comunità, fanno dei gruppi di autoaiuto per i sopravvissuti o delle collette per le famiglie e per i bambini che sono rimasti orfani. Queste persone che aiutano gli altri riescono poi anche ad aiutare di più loro stessi. Bambini, adulti, anziani, le esperienze, anche l'età, fanno differenza? Sicuramente una prima indicazione rispetto ai bambini è quella di non esporli eccessivamente ai telegiornali. Cioè no all'esposizione diretta delle notizie dei giornali. Perché? Perché è un linguaggio per adulti. Sì. Sono spesso, non sempre per carità, ma anche delle notizie un po' allarmiste. E già spaventano molto gli adulti che entrano in un mood emotivo di un certo tipo. Figuriamoci l'effetto che possono fare con i bambini. Quindi proteggiamoli. Proteggiamoli, certo, che non vuol dire teniamo loro nascosto quello che sta succedendo, ci mancherebbe altro. Ma parliamo noi a loro di quello che sta succedendo, con le loro parole, no? E poi più in generale, sicuramente non si sbaglia mai a declinare l'amore che noi proviamo nei loro confronti in diversi modi. Che cosa vuol dire? Quindi la curiosità nei confronti di come loro stanno vivendo questa situazione, oppure l'attenzione, l'empatia. Dobbiamo dedicare loro del tempo. Tempo, parole giuste anche nei confronti degli anziani, che si sentono molto fragili. Parlo di anziani, ma dottor Mazzucchelli, accanto agli anziani metto anche le persone che soffrono di patologie croniche e quindi sanno che il loro rischio può essere aumentato. È così. Per tutti noi diciamo che è una questione di gestione del rischio, no? Cioè questo, abbiamo un rischio in più col quale dover affrontare la nostra quotidianità. Tutta la nostra vita è sempre stata una grande gestione del rischio e lo è sempre, da quando prendi un medicinale che hai un rischio di qualche effetto collaterale a quando allacci la cintura sul seggiolone del bambino in automobile, che c'è un rischio che qualcosa possa comunque andare storto. Oggi c'è un rischio in più da gestire. Per gli anziani questa cosa è particolarmente vera, perché in questo caso è anche una paura probabile e non solo possibile, quella del contagio. Più probabile, le probabilità aumentano. Quindi di conseguenza noi dobbiamo stare loro vicini, dobbiamo assolutamente comprendere la loro preoccupazione, comprendere la loro paura, ma non dobbiamo permettere che queste persone si isolino, perché l'isolamento sociale è spesso l'anticamera della depressione e questo è un altro rischio che dobbiamo comunque considerare nelle varie scelte e opzioni che la vita in questo momento ci propone. Quindi distanziamento fisico? Sì, distanziamento sociale inteso anche come distanziamento emotivo e relazionale, no, non ci fa bene. Questo no. E a volte basta una telefonata, vero, dottor Mazzucchelli? Non è che dobbiamo abbracciarci, a volte basta una frase, un messaggio, possiamo stare vicini pur restando lontani per sostenerci. Oggi più di ieri, direi, con tutte queste nuove tecnologie abbiamo tantissime opportunità per provare a stare vicino a queste persone. Sicuro. Grazie, grazie perché lei è stato vicino a noi e ci ha dato degli spunti interessanti su cui lavorare. Io spero che lei venga a trovarci prestissimo e le auguro una buona giornata. A lei un caro saluto. E anche ai suoi bambini e alla sua famiglia. Grazie. Noi ci fermiamo, ma ci ritroviamo subito dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e come ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per le nostre video interviste. Buona giornata da Nicoletta. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.